stato già osservato che il secondo conflitto in Iraq è a tutti gli effetti una guerra mediatica, più di quanto sia stato quello nella ex Jugoslavia, che pure per molti aspetti ha costituito una sorta di warming up, cioè riscaldamento per le operazioni successive. C'è da chiedersi cosa sarebbe questa guerra, compreso l'attacco dell'11 settembre, se non ci fosse la televisione. Il crollo dei due grattacieli avvenuto in una lontana città degli Stati Uniti non è minimamente paragonabile agli attuali stermini di massa africani, che, non avendo supporto mediatico equivalente, appaiono insignificanti, se non addirittura inesistenti. Ecco allora che interviene il terrorismo a scuotere le coscienze, e lo fa ancora una volta mediaticamente, con una lunga catena di video che ci offrono non la guerra, ma la sua pornografia. Video di basso livello, girati e montati da volgari macellai di regime, culturalmente abituati ai video pornografici autoprodotti. Come ha osservato Baudrillard, in America tutta la comunicazione tende alla pornografia. Non è un caso che i clip dei terroristi finiscano per ingrossare cataloghi come quello di ogrish.com e vengano fruiti in rete come snuff movies, cioè un film orrido, secondo l'ultima moda americana. Ma se partiamo dall'assunto che la pornografia sia una modalità tutta occidentale e non ancora assimilata dal mondo musulmano, soprattutto da quello più povero, prende forma l'idea che dietro a tutta questa spettacolarizzazione, e quindi pornografia, ci sia una regia occidentale. In un'economia mediatica anche le azioni dei terroristi sono atti di comunicazione. L'osservazione sistematica dei cambiamenti di strategia da parte dei gruppi più di dubbia origine, come ad esempio il fantomatico esercito islamico in Iraq, può condurre a qualche indizio che va oltre le notizie riportate dalla stampa. La prima grande novità nel comportamento dell'esercito islamico in Iraq è data dalle proroghe degli ultimatum. La risolutezza dimostrata nell'assassinare Enzo Baldoni allo scadere dell'ultimatum sembrava fissare un nuovo stile di comportamento rispetto a quello di altri gruppi noti, che poi trattavano. Ma questo non ha avuto un seguito coerente nel caso dei due giornalisti francesi. All'assurdità della richiesta, ancora più irricevibile di quella fatta per Baldoni, cioè modificare in 48 ore la legge che in Francia vieta l'uso del velo a scuola alle studentesse di fede islamica, è seguito un imperscrutabile silenzio allo scadere dell'ultimatum. La diplomazia e il lavoro dei servizi francesi hanno evidentemente creato condizioni che i terroristi o i loro mandanti non avevano previsto, e il silenzio corrisponde a una fase di riformulazione della strategia. Scaduto l'ultimatum, con il nulla di fatto, non restava che prorogarlo con nuove richieste. Poi, allo scadere del secondo ultimatum e di fronte a condizioni immutate nell'atteggiamento della Francia e di buona parte dell'Europa, ancora silenzio. Sembra quasi che i terroristi siano al corrente degli umori politici e dell'opinione pubblica dei vari paesi interessati e in base a questi adattino i loro cambi di strategia. Si direbbe quasi che i terroristi seguano in televisione le nostre reazioni. Accerchiati dal lavoro della diplomazia e dei servizi francesi, oltre che dall'opinione pubblica di gran parte dei paesi arabi, i sedicenti membri dell'esercito islamico in Iraq stanno rischiando di venire smascherati per induzione. A questo punto un'altra mossa, liberare gli ostaggi. Ma forse non è possibile liberarli veramente, forse i due giornalisti francesi hanno capito perfettamente chi hanno davanti e lasciarli liberi significherebbe svelare tutta la messa in scena e mettere in pericolo i loro mandanti. Ecco l'ultima possibilità quindi contemplata da questo copione. Raccontare che i due giornalisti ora sono liberi e spontaneamente collaborano con i loro rapitori. Da dove viene quest'idea? È molto semplice. La tattica del lasciar morire le proprie vittime di una morte plausibile o quantomeno probabile in base alle loro attività specifiche, ai loro obiettivi o alle loro abitudini è una tecnica tipica della CIA. Un modo logico per fare un lavoro pulito. Chesneau e Malbruno avevano dichiarato di amare il popolo iracheno e di volerne documentare le vicissitudini. Ebbene, improvvisamente i terroristi dell'esercito islamico in Iraq hanno dichiarato che i due francesi sono passati dalla loro parte e collaboreranno per documentare in prima linea il loro operato. In uno schema del genere, i due giornalisti non potrebbero più tornare a casa, morirebbero come preannunciato in prima linea e in più la loro memoria in Europa sarebbe infangata in quanto traditori e complici dei terroristi. Ma è in gioco la credibilità dell'esercito islamico in Iraq, una formazione che ha al suo attivo una serie di errori strategici incomprensibili che hanno ridotto a zero l'attendibilità di questa formazione fin dall'inizio. La pressione esercitata verso di loro dai musulmani stessi attraverso i media ha avuto qualche effetto. E così assistiamo all'ennesimo ridicolo cambio di strategia reso possibile dagli appelli provenienti dal mondo musulmano, che giustificherebbero la svolta impietosita, per così dire. Troppo facile, troppo immediato il cambiamento di tattica. In Iraq deve esserci necessariamente qualcuno che osserva le oscillazioni dell'opinione pubblica e in base a queste comunica ai terroristi le nuove disposizioni comportamentali. Una banda di mujahideen nascosti in mezzo al deserto e alle macerie non può essere dotata di TV satellitare e di centraline per la post-produzione, soprattutto in una zona dove operano gli americani con sofisticate apparecchiature in grado di captare ogni forma di segnale. I servizi segreti che secondo noi sono nella cabina di regia di queste operazioni decidono in tempo reale il copione come in un reality show. Bruno Ballardini per Reporter Associati e Amisnet.